Radio 24 Reportage. Vertice UE, il caso Italia a Bruxelles, di Sergio Nava. Buongiorno da Bruxelles, giovedì 14 marzo, sono da poco passate le 16.30 e pochi minuti fa il premier dimissionario Mario Monti è arrivato al palazzo Justus Lipsius, dove si tiene il vertice dei 27 leader europei. Ci troviamo proprio all'esterno, insieme ai giornalisti, in attesa dell'arrivo dei leader, all'esterno di questo edificio dove si tengono le riunioni del Consiglio europeo, e all'interno di questo reportage da Bruxelles cercheremo di capire come è cambiata l'immagine dell'Italia in Europa dopo le elezioni, come questa incertezza politica italiana è vista all'interno dell'Unione Europea ed è vista anche dai nostri più stretti alleati. Parlerò ai miei colleghi nella consapevolezza di partecipare per l'ultima volta al Consiglio Europeo e all'Eurosummit, invitandoli a riflettere in positivo e in negativo sul caso italiano, perché è un caso che, al di là dell'importanza dell'Italia come uno dei grandi stati membri, si presta a riflessioni più generali. Così il premier Mario Monti al suo arrivo a Bruxelles giovedì ha toccato in modo neppure troppo indiretto la questione. Al suo ultimo vertice da premier, Monti rivendica rispetto per l'Italia, rispetto per il suo impegno europeo e la dimostrata affidabilità. Monti annuncia che intende porre il caso Italia all'attenzione dei partner europei nel corso della riunione serale. Il paradosso è che la situazione politica in Italia non figura nell'agenda ufficiale dei temi del vertice, né potrebbe esserlo, trattandosi di una questione squisitamente interna, ma le scosse telluriche dell'incertezza politica che si vive a Roma si sentono forti e chiare qui a Bruxelles. Non credo che l'Italia avrà presto bisogno di un piano di salvataggio, dice l'ex presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker, incalzato da una giornalista. Risposta, va precisato, data più che altro per non dire l'esatto contrario. In questo la vecchia volpe della politica lussemburghese resta un maestro. Il sempre diplomatico presidente europeo Van Rompuy, interrogato in conferenza stampa, preferisce rimanere nell'ambito delle dichiarazioni di circostanza. Sono certo che il buonsenso prevarrà in Italia, dopo l'eccellente lavoro compiuto dal governo Monti sul piano della politica di bilancio e delle riforme strutturali. Il paese continuerà a lavorare nella direzione di una crescita più forte e di finanze pubbliche più sane, anche se con nuovi accenti, nuove sfumature, nuove modalità a seguito dei risultati elettorali, dice Van Rompuy. Più schietto il presidente dell'Europarlamento Schulz, non possiamo sottovalutare le implicazioni delle elezioni italiane. Nel caso Italia abbiamo parlato con il commissario europeo all'occupazione e affari sociali, l'ungherese Laszlo Andor, che ripete: qualsiasi governo di coalizione ci sarà a Roma, occorre continuare sulla strada delle riforme. L'incertezza di governo non è normalmente buona per la situazione economico-finanziaria, ma le elezioni sono un tema interamente domestico. Dal punto di vista sociale, abbiamo enfatizzato che le due maggiori riforme su pensioni e mercato del lavoro sono state molto importanti per migliorare il potenziale di crescita dell'Italia e la sostenibilità del sistema pensionistico. Occorre continuare a sostenere questi risultati. Occorre migliorare l'accesso al mercato del lavoro di giovani e donne. Occorre andare avanti. Chiaramente c'è bisogno di un governo per fare questo, che sarà probabilmente un governo di coalizione. Saremo molto contenti di lavorare col nuovo esecutivo. Così ci vede l'Europa, ma la Germania è il paese che più di tutti condiziona dall'inizio della crisi le strategie economiche europee, che più di tutti, anche se tra alti e bassi, ha puntato sulla politica di risanamento del premier Monti. Come ci vede la Germania? Lo abbiamo chiesto a Beda Romano, giornalista del Sole 24 Ore e profondo conoscitore del mondo tedesco. È evidente che per i tedeschi la situazione politica italiana sia una situazione che è di grande preoccupazione, perché il risultato elettorale non poteva essere peggiore per certi versi, per due motivi. Prima di tutto perché non è emersa una maggioranza chiara, e già questo è elemento di preoccupazione per i tedeschi, e il secondo aspetto evidentemente è il fatto che è presente a questo punto in Parlamento una forza politica importante che è quella capeggiata dal comico Beppe Grillo, che è una forza politica che ha molti deputati che sono imprevedibili, e quindi questi due aspetti creano preoccupazione, timori, per certi versi perché la Germania si rende perfettamente conto che l'Italia non è il Belgio. Il Belgio è rimasto senza governo per 500 e passa giorni alcuni anni fa, però era un paese piccolo, facilmente gestibile. L'Italia è un paese molto più importante. Guardando un po' più in prospettiva, come possono cambiare secondo te le relazioni tra Germania e Italia? Devo dire che i rapporti italo-tedeschi nell'ultimo anno e mezzo sono stati buoni fino a un certo punto, nel senso che è evidente che la presenza di Mario Monti alla presidenza del Consiglio ha rassicurato l'establishment politico ed economico tedesco. Però è anche vero che Mario Monti in più di una circostanza su vari fronti ha imposto il suo punto di vista. Insomma. Giugno dell'anno scorso. Esattamente, non è stato un interlocutore sempre facile, però evidentemente era un interlocutore con i quali i tedeschi potevano bene o male trattare e sapevano più o meno che cosa aspettarsi di lui. Adesso Mario Monti è un primo ministro per gli affari correnti e questo evidentemente non aiuta, e poi non sappiamo che tipo di governo il paese avrà nei prossimi mesi e se invece dovrà addirittura tornare alle urne. Per i rapporti italo-tedeschi si apre una fase nuova, una fase dove purtroppo c'è il rischio di pregiudizi reciproci, di cliché reciproci, di tensioni, di nervosismi, soprattutto di incomprensioni. La mia percezione da Bruxelles è che siano più numerose le incomprensioni italiane nei confronti della Germania che le incomprensioni tedesche nei confronti dell'Italia. La sera di giovedì, quando sta per calare il sipario sull'anno e mezzo vissuto pericolosamente da Monti in Europa, il Premier rende nota una lettera inviata al Presidente europeo Van Rompuy, una sorta di testamento politico nella quale porta il caso Italia come esempio di paese che ha tenuto fede a tutti i patti e a tutti gli impegni sottoscritti, almeno con lui Premier, e che, questo è il rimpianto implicito di Monti, col senno di poi avrebbe avuto diritto a qualche margine di manovra in più per stimolare investimenti produttivi e allentamenti fiscali sul carico da lavoro. Misure efficaci per rilanciare la crescita e combattere la disoccupazione di lunga durata e giovanile sarebbero il miglior messaggio per contrastare la marea montante del populismo e la disaffezione nei confronti dell'Unione Europea, dimostrando come l'Europa sia capace di ascoltare le preoccupazioni dei cittadini e possa essere un alleato nella costruzione di un futuro più equo e prospero per tutti, scrive Monti. In queste righe c'è tutto il rimpianto del Premier per non aver potuto avviare quella fase 2 che avrebbe forse evitato risultati elettorali così clamorosi e per lui devastanti. È questo il vero caso Italia, la vera lezione per l'Europa, quel caso che, per dirla proprio con Monti, è stato molto seguito dai leader europei, un caso che interessa, impressiona e preoccupa tutti i governi, dice Monti. Interessati, in grosse difficoltà di fare previsioni, molto più sereni di quello che sarebbero se l'Italia che si accinge, che sta attraversando questa fase di incertezza, non fosse, come invece ormai è, un'Italia con la finanza pubblica solidamente stabilizzata. E se noi ci chiediamo come mai questa grande, almeno nel breve periodo, incertezza politica ha avuto riflessi fortunatamente abbastanza limitati sullo spread, anche se dispiace vederlo salito dal 240-250 punti di prima delle elezioni al 320 circa di oggi, sono denari importanti, ma non c'è stato per fortuna un grosso aumento, e credo che questo sia dovuto a due circostanze. Una, appunto, il fatto che è un paese che ha un grosso problema di crescita, per il quale sono state poste le pietre delle fondamenta, ma che ha una finanza pubblica sana, stabilizzata. E secondo, a mio parere, gioca il fatto anche che esiste, anche se non è ancora stato attivato da nessuno, quel meccanismo anti-spread che esiste che ha avuto la sua copertura morale e politica, come ci siamo detti all'epoca, nelle deliberazioni del Consiglio europeo di giugno. Monti lascia Bruxelles nella notte, sceglie dopo una leggera esitazione di non rispondere all'ultima domanda che gli viene posta da Radio 24 su un suo eventuale rimpianto dopo questo anno e mezzo rappresentando l'Italia in Europa. Ma sbirciando tra le righe della sua ultima lettera, questo rimpianto alla fine emerge. Monti saluta e se ne va. Il caso Italia a Bruxelles resta. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.